24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo come la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca! Con Berlusconi preferisco farci l'accordo sulle regole, sulle riforme, sulla legge elettorale, che non governarci. Vai, Goldrake! Dai! Alabarda spaziale! Ci siamo, ci siamo! Pare che siano, giuro, l'ho twittato, lo scrive il Corriere della Sera, le ore decisive. Non siamo più alle settimane, ma alle ore decisive. Anche il giornale dice entro oggi, domani la legge elettorale arriva alla Camera e dunque si sono messi d'accordo, pare, per la temperatura che fa venire la febbre, 37. 37%, il 37% dovrebbe essere questa la soglia. La battuta l'ha rubata un deputato del PD che ieri ha detto: ah, che temperatura viene la febbre? 37, ecco, era ovvio che ci accordavamo a quella temperatura, a quella cifra, voglio dire. Oh, siamo qui con 24 mattino alle 6.33 minuti con Carmelo Lauricella in regia, Miriam Lucchetti che è scomparsa, appare, scompare, telefona, scompare, salta, è saltato il sistema, non trova l'audio di Brunetta, non trova Paola Saluzzi, non trova l'audio di Brunetta, come faccio io a sopravvivere? L'audio di Brunetta è essenziale perché ieri Brunetta ha fatto un pezzo splendido. È essenziale, ma infatti è il gioco dell'otto. È lì che cerca Brunetta. Ma veramente mi è piaciuto tantissimo. E aggiungo, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Carolino Milan. Buongiorno. E a tutti i nostri radioascoltatori. 37, febbre da elezioni. È stato tutta la notte. Oppure 35, 37, 38, terno, non so, ruota di Luca Dini, buongiorno. No. Direttore buongiorno. Di Vanity Fair, te li vuoi giocare? Beh, sono troppo ravvicinati. 35, 37, 38, statisticamente. No, devo dire 37 la febbre è battutone dell'anno, eh? Eh sì. Buongiorno, l'onorevole David Ermini ieri ha fatto questa battuta in Parlamento, a che premio Woody Allen veramente, e però è la battuta che più circola perché si accordano su questa. Apriamo il Parlamento, dai, forza, a proposito di Parlamento e Parlamento oggi. Oggi so già che faremo arrabbiare molto Paola Saluzzi, mamma mia, lei le istituzioni, appena toccano le istituzioni, soprattutto appena gli toccano Giorgio Napolitano, è proprio... Se pensa che ieri stavo in diretta. No, ieri in diretta quando è arrivata la dichiarazione di tale onorevole, com'è che si chiama? Sorial, credo, no? Un po'... Ti sei un po' risentita. Un po' esagerato, insomma. Leggermente esagerato, sì. Lo vogliamo sentire subito, altro che legge elettorale? Vabbè, insomma, è l'insulto del giorno, l'onorevole del Movimento 5 Stelle, Sorial, che dice di Napolitano? Potremmo dire che il boia Napolitano in questo momento stia avvallando tutta questa serie di azioni nei confronti proprio delle opposizioni, per cucire loro le bocche, anzi... Vabbè, è il boia quello che conta, no? Caro Luca Dini, hai visto qui, il boia. Guarda, è quasi troppo facile rispondere ai 5 Stelle che se Napolitano è lì è solo perché gli altri partiti non si sono piegati al loro capriccio di votare Rodotà, che poco tempo dopo Grillo ha definito povero vecchio. Ah, eccolo lì subito. Allora, Luca Dini non è su Twitter, ma cari amici del Movimento 5 Stelle, se volete partire subito con i vostri... Ma questo non è, cioè... No, perché sai che loro... lo so, però appena critichi... Tu, Paola Saluzzi, vuoi metterci il carico da 90? Io penso che sia stato un uomo del Movimento 5 Stelle e sì, non il Movimento 5 Stelle. Questo è vero, oggi viene un po' a catalogare in questa maniera un uomo delle istituzioni. Allora, tra l'altro, se si risente l'audio è, come dire, un brutto scivolone, sì, brutto scivolone, sì, di quelli che non vanno fatti, ma è un uomo di quel movimento a essersi espresso così, se no rischiamo un mettere insieme nel cassetto, è come quando metti insieme nel cassetto le camicie tutte disordinate, no, mettiamole con ordine. Sì, sembra più uno scivolone, ma infatti oggi nessuno lo intervista, nessuno, no, l'hanno un po' silenziato, dai, perché si sono resi conto che... Ma non è tanto lui o l'insulto, è comunque l'ennesimo episodio di una campagna di critica. Io quello che stavo dicendo è semplicemente questo, che sì, Napolitano è legittimamente criticato in modo molto vivace da chi sostanzialmente ha fatto in modo che fosse di nuovo lì, quindi sì, è un po' ridicolo, ecco. Va bene, però Paola ti vedo più pacata, sei sfogata ieri in diretta evidentemente quando... Ma guarda, ieri in diretta in realtà ho seguito lo sfogo degli altri. Mm-hmm. Mi vedi pacata per un motivo, perché io spero, ecco, questo sì l'ho detto ieri in diretta, che molto presto persone del Movimento 5 Stelle, persone che ne fanno parte, si mettano all'interno dei programmi e si confrontino con giornalisti, altri politici, e non paludandosi dietro il problema è un talk show. Io capisco che faccia parte del contratto che loro hanno firmato, ed è giusto, per carità, seguono questa linea, perché più parlano e spiegano anche gli scivoloni, ribadisco, orrendi, come è stato quello di ieri, mm-hmm, e più si spiegano alla gente, sì, se no rimane questa roccaforte dell'insulto, dalla sopra butto l'olio bollente, sparo con veramente le alabarde. Sì, alabarda spaziale. Si tiravano, sì, le alabarde, chiedo scusa, non si sparavano. E alla fine rimane un cliché che molto spesso fa fare orrende figure. Vabbè, certo, ma detto questo, no, ma proprio, certo. Ma sì, ma è una roba proprio gratuita, è di basso livello, sì, basso, effettivamente sì. E devo dire che poi le critiche si possono fare. In tutto questo si sfugge la cosa più importante. Ma lo sapete voi? Lo sapete che oggi scadono i termini per approvare un decreto, per convertirlo in legge? È il decreto IMU Banca Italia, e tra l'altro il Movimento 5 Stelle sta facendo ostruzionismo perché dicono sono due cose che non vanno messe insieme. Ma al di là della questione non mi interessa capire se hanno ragione o no, mi interessa che se entro oggi non si converte questo decreto, caro Luca Didi, sai cosa succede? Saltano le esenzioni dell'IMU, cioè tutti gli italiani devono pagare l'IMU sulla prima casa, ma sai le risate, cioè le risate ovviamente ironiche, sai che succede se dovesse succedere dopo che per mesi abbiamo parlato dell'IMU che non riescono a convertire il decreto entro oggi e abbiamo scherzato dopo sei mesi di dibattito, altro che forconi poi la gente... No. È proprio quello che diceva Paola, le critiche, le posizioni sono tutte legittime, però poi il confronto, la mediazione è necessaria, perché sennò il meccanismo politico si inceppa per forza, cioè non si può poi solo dare la colpa agli altri. No, chissà come va a finire, cara Paola, tu seguirai oggi Alessandro, questa cosa. Sì. Per un attimo, poi per carità, io sono vicino alla Gugazziere stamattina, ci sia chiaro. Più piccolina, faccio la figura di Renato Raschel, ma sono vestita da corazziere. Attenzione alle parole, avete citato poco fa il movimento dei forconi, che bisogna ascoltare e che tutti hanno seguito, però attenzione alle parole, perché dire che tra poco sarà il disastro, il paese, le piazze, ma non per fingere che tutto vada bene e nascondere la polvere sotto al tappeto. Allora concentriamoci su Electrolux, sì, concentriamoci sui punti, ma smettiamola di invocare piazze, strade, barricate, fumo, perché se qualcuno è nato intorno agli anni 60 si ricorda gli anni in cui sono successi i disastri in questa nostra nazione. I disastri, quindi le parole pesano. Allora, in tutto favore. Questo, in tutto questo, no, vabbè, io l'ho detto adesso, sembra sembra veramente una barzelletta la questione invece della legge elettorale, sono le ore decisive, ma sembrano veramente le ore decisive, ma adesso capisco che messa così può suonare un po' bizzarra. Pare che ci sia questo accordo per la soglia del 37%. Era all'inizio il 35, Renzi la voleva alzare al 38, ha chiamato Berlusconi, ieri si sono sentiti due volte al telefono con annesse polemiche, Renzi che dice ma non lo posso neanche sentire al telefono adesso, insomma, e via. E pare che ci sia questa corda al 37% come soglia, sono appunto tecnicalismi della legge elettorale, ma ci siamo, questo è il momento davvero decisivo, dopodiché... Luca Dini, che succede? Si va a votare a questo punto? No, non si va a votare. Non... No. Credo che si farà. Io credo che si farà un altro governo. Si farà un altro governo. Governo magari con Renzi a Palazzo Chigi, ma lui smentisce. Certo, credo che cioè, mi sembra la cosa. Mi sembra che ci si avvii verso quello. Verso mi quello. Pare di capire. Ma... Tu, Paola, che ha previsioni, sai che. Avevi ma detto. Però io avevo detto che fosse il 30 di settembre, la data, il numero l'avevo cercato. Ah, il 30 di gennaio, attenzione, domani! Tu esatto, ci vedevi così giorno. Lungo, eccolo! Sì, io non avevo visto bene il mese, mi mancava il mese, ma il numero c'era. Governo bis, semestre europeo ce la facciamo e poi se ne parla. Poi se ne parla. E finalmente però così arriviamo ad una legge elettorale, come dire, forza Goldrake. È chiaro, se no alla barda spaziale. Allora io vorrei introdurre questo argomento. Ieri il Fatto Quotidiano ha pubblicato questa notizia. Il governatore dell'Abruzzo, Chiodi, ha dormito in un hotel con una ragazza, una donna, e questa donna due mesi dopo è stata favorita in un concorso pubblico. Un'accusa molto pesante nei confronti di Chiodi. Ora... Che cosa succede? Il governatore dell'Abruzzo, Chiodi, oggi rilascia un'intervista al Corriere della Sera nella quale dice non ho aiutato nessuno, quella donna non l'ho aiutata, guadagna 200 euro, io non c'entro niente, ma soprattutto lancia questo tema. È vero, ho fatto questa debolezza, chiedo scusa a mia moglie, chiedo scusa a mia figlia, ho già parlato con loro, spero a questo punto mi perdonino. Il dato di fatto è che rimane una relazione personale trasformata in macelleria con tutto sui giornali. Apre un tema interessante, Luca Dini, perché adesso vedremo e non lo so, la procura indagherà se c'è stato favoritismo da parte di lui, nega. Il dato di fatto è che sicuramente è bello che sputtanato, questo è abbastanza, sì. È abbastanza chiaro. E allora che deve fare un giornale in questo caso? Pubblicare o no? Beh, dipende. Io, cioè, onestamente, se venisse fuori che effettivamente questa persona non è stata favorita, sarebbe macelleria. È macelleria comunque in un certo senso. Però io penso anche che quando sei un personaggio pubblico e hai una carica di quel tipo, se veramente c'è stata questa relazione e se veramente questa persona è stata favorita, beh, allora... Nella macelleria c'è entrato da solo. Diciamo. No, ma quello sicuramente, cioè ci sono due binari però paralleli che corrono, cioè l'aspetto giudiziario poi si vedrà, lui si difende, però qui, cara Paola Saluzzi, il dato di fatto è che ora sui giornali il governatore dell'Abruzzo si deve giustificare di fronte all'opinione pubblica per una relazione extraconiugale. Io penso sempre che, cioè, forse una posizione un po' bacchettona, ma la vita privata delle persone pubbliche non esiste. Non esiste. Ah, Paola. Esiste. Esiste con l'attenzione che si deve fare al fatto che sia una vita pubblica. È un tema difficilissimo, Alessandro, e lo dico anche al direttore, è un tema difficilissimo. No, ma è chiaro, ma infatti Chiodi fa delle... È difficile pensare... Allora, se stiamo facendo discorsi con i se e dei discorsi dei se sono piene le fosse, ma se alla fine risultasse che questa persona non è stata assolutamente favorita, cosa fai? E non lo so cosa fai, ma infatti, so, infatti il dato di fatto che oggi Chiodi è sul Corriere della Sera. Sì. No, no, ma è chiaro, è Chiodi sul Corriere. Chiodi dice: vi dimostrerò che io non ho favorito questa persona. Ok, perfetto, siamo tutti in attesa. E questo lo deve dimostrare i magistrati, più che altro, se, bene, se c'è qualcosa. Assolutamente, su questo non ci sono dubbi. Però poi, se risultasse che veramente non ci sia stato alcun tipo di favore, dopodiché si chiude la porta di una stanza, che sia d'albergo che sia altro, e ognuno è davanti alla propria, come dire, coscienza, che dire? Eh no, ma infatti è un tema, a me ha molto colpito, poi la leggerò in rassegna stampa, Chiodi che si presenta così al giornalista del Corriere della Sera, Fabrizio Caccia, e dice due volte anche durante l'intervista, con la voce rotta dal pianto, cioè, posso immaginare che il momento non sia facile, a dire sì, è stato un errore, ho già parlato con mia moglie, con la maggiore delle mie tre figlie, ci riparlerò, spero almeno in tutta questa vicenda di tenere unita la famiglia. Insomma, apre uno spaccato interessante e molto profondo. No, su cui c'è tantissimo da dire. No, ma chiaramente. Guai al contrario, ecco, il concetto è questo, guai al contrario. Ma chiaro, non deve ma dare se una, quel contrario un'impunità. Non fosse, visto che dobbiamo sempre partire dal presupposto che l'uomo che è stato trovato davanti ad un cadavere possa non essere l'assassino. Eh no, è chiaro, se non che fosse, si fa? Che si fa? Grande lo so. Punto di domanda. Punto di domanda che affidiamo al traffico, poi rientriamo a Bemus Brunetta. A Bemus Brunetta, l'abbiamo trovato dopo il traffico. 24 mattino. Caro Alessandro, perché noi con 500 euro di pensione dobbiamo pagare tutto, anche i medicinali, e loro con i loro stipendi d'oro, anche i caffè vengono rimborsati, devono rimborsare tutto. Sono Angela, una mamma che veramente non ce la fa più. Affidare l'INPS a Mastrapasqua è come affidare i bambini a un pedofilo, io lo considero in questa maniera. E poi vorrei fare un appello alla signora Fornero, la vorrei invitare a non essere troppo ciusi, cioè a dire ciò che sa, da parte di chi l'ha trovate le restrizioni a non poterlo spostare il signor Mastrapasqua. Spero che gli extracomunitari che arrivano dall'Africa e che la Lega chiama Bingo Bongo arrivino tutti in Padania, facciano scendere dagli alberi i leghisti, insegnino a loro a leggere e a scrivere e così acquisiscano il senno della ragione. C'è qualcuno che può spiegare agli italiani come mai, quando si devono fare dei semplici concorsi per bidello, per operatore ecologico, bisogna essere penalmente immacolati. Invece per andare in Parlamento si può essere indagati, plurindagati, condannati e si può sempre dettare legge sulle piazze. Buongiorno, caro Milan. Alla Electrolux di Porzia, Pordenone, si dileggiano i salari per mantenere i posti di lavoro. Ai dipendenti della provincia di Udine, invece, vengono distribuiti 460.000 euro. Se questa è giustizia... Milan, hai rotto questa carta costa. I giornali di che cosa dovrebbero parlare? Solo della legge elettorale? Non è che gare, va. Grazie Paola Saluzzi, grazie, ringrazio. No, vabbè, insomma, invece quel premio è ascoltato e ambito. Posso fare una proposta? Sì, sì. Portiamo la signora Anna per un giorno al governo. Ma lei davanti a tutti. Ma risolviamole i problemi più che alla signora Anna, come a tutti quelli che... Risolviamole i problemi, ma sarebbe bello che questa donna potesse dire in faccia a tutti la propria giornata, i propri problemi, che cosa succede con 500 euro per vivere. Lo so. Noi tra l'altro invece parleremo anche di questa vicenda Electrolux alle 8.15, ci sarà anche Oscar Giannino che torna qui, ci sarà Paolo Ferrero di Fondazione Comunista, insomma parleremo di questo tema che non è solo gli operai Electrolux, apre tante discussioni. Allora, lo vogliamo sentire Brunetta perché l'abbiamo trovato? Brunetta! Tra Renzi e Letta chi cede? Com'è? Tra Renzi e Letta chi cede? Chi è Letta? Eccolo qua, chi è Letta? Ma no, i numeri! Ce ne lo so, i numeri, no, abbiamo trovato questo ieri a Ballarò, il più freddo. Chi è Letta? Lucadini, chi è Letta? Ma Brunetta me fa morire. Vabbè, certo, Brunetta, chi Letta, chi? Dai. Allora, io, Vanity Fair, ce l'ho qui, sapete chi c'è? Casa Zingaretti, per la... Cos'è per la... Ma cosa dici, Uca? Adesso qual è la copertina? Dimmela. Casa Zingaretti vuol dire che ci sono gli Zingaretti? Eh certo, gli Zingaretti. Come facevi a saperlo? Vabbè, Casa non Zingaretti. Non i fratelli, No, no, no, non i fratelli. Zingaretti. Ma no, è casa. E la Ranieri, no? Insieme, per la prima volta? Ma perché per la prima volta? Cioè, non si fanno mai fotografare insieme, caro Luca? Mai. E come mai? Sai... separare le carriere dalla vita privata. Ah, ecco, appunto queste cose qua. Vabbè, c'è solo tempo per dire questo, mannaggia, ho trovato anche tanti articoli, è una storia, la voglio citare, solo Luca, non c'è tempo per commentare perché apre discussioni. Una donna che cosa ha fatto? Ha donato il rene al marito, un gesto di grande amore, e il marito, insomma, è nato il secondo figlio e l'ha lasciata. E lei lo rifarebbe, però. E lei lo rifà, lei dice lo rifarei comunque, insomma. Ovviamente è una storia umana che apre anche a tante discussioni. Ma non c'è molto tempo per approfondire, voglio solo ragazzi, mancano 12 giorni al libro di Wondi, Eccolo là. Io sto tenendo il conto alla rovescia, 12 o 13 giorni al libro di Wondi. Anch'io. Per favore. Indovina perché. Allora, cara Paola Saluzzi, il premio del genio dell'anno è un signore di Salerno, disoccupato di 40 anni, che oggi è sulla prima pagina della stampa. Sapete cosa si è inventato come lavoro? Come lavoro, ha detto: sto in coda per gli altri. 10 euro all'ora, coda alla posta, alla banca, alla fila, all'IMU. L'IMU è la mia specialità. Le code ovunque. Campania Felix. 10 euro all'ora. Un genio. Grazie a Paola Saluzzi di Sky. La troviamo oggi alle 15, Sky TG24 pomeriggio. E grazie a Luca Dini, Vanity Fair, numero in edicola, ora giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:18 minuti. Eccoci, cari ascoltatori, a leggere i giornali. Forza! Dai! Come sempre. Il mio incitamento deve iniziare anche la vostra giornata, debosciati che non siete altro. Vi ricordo che oggi parleremo tra un'ora della vicenda Electrolux, che non è solo la vicenda in sé degli stabilimenti, degli operai, dell'azienda. È una vicenda che riguarda anche l'Europa, no? Si è detto, ma come? Salari polacchi, questa è la proposta per non chiudere. È una vicenda che riguarda il costo del lavoro, che riguarda il fisco. Insomma, un tema molto molto ampio che affronteremo con Oscar Giannino, che torna ai microfoni di 24 Mattino, anche qui al mattino. Graditissimo ritorno. Ci sarà anche Paolo Ferrero, il rappresentante, segretario di Fondazione Comunista. E avremo il sindaco di Porcia, dove c'è uno degli stabilimenti per cui si tratta per evitare la chiusura. Questo tra un'ora. Ora andiamo a sfogliare i quotidiani che trovate in edicola. In questo mercoledì 29 gennaio, intanto i titoli, il Sole 24 Ore, che voglio celebrare oggi, ha una doppia iniziativa, esce con Il Regalo, il primo volume del corso di lingua inglese, quindi ve lo segnalo perché è il regalo, libro e CD, e anche con in allegato il primo dizionario pratico dedicato in questo caso alla casa. È una serie di dizionari che usciranno a partire da oggi per 4 giorni, oggi tutte le novità da A alla Z sul tema casa. Il Sole 24 Ore apre con questo titolo: più tasse sugli immobili ma sconti alla prima casa. La vicenda della legge elettorale invece, l'apertura di Repubblica, legge elettorale, pronto l'accordo per il giornale, Renzi alle palle, questo è il titolo di prima pagina. La Stampa, riforme intesa a un passo, e Il Messaggero, Renzi Berlusconi nuovo patto. Il Corriere della Sera invece ha questa apertura, sì sull'IMU oppure si paga. È una vicenda che spiegheremo, e cioè entro oggi va convertito in Parlamento un decreto, il decreto IMU Banca Italia, se no, cari italiani, abbiamo scherzato e si pagherà l'IMU anche sulla prima casa, perché il decreto diventa carta straccia se non viene convertito entro oggi. 5 Stelle di vergogna, così titola l'Unità, gli insulti del Movimento 5 Stelle di un deputato a Napolitano. Libero, Letta costa più di Monti, questo è il titolo, bilancio fallimentare, mentre il Fatto Quotidiano, Electrolux, quello da licenziare è zanonato, il titolo nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministro. E anche Avvenire, la sfida del lavoro, questo è il titolo di prima pagina, mentre il Manifesto mette la questione del lavoro, ma mettendo in prima pagina Obama e giocando sul Jobs Act di Renzi e mettendo questo titolo, Jobs Fact, cioè un fatto, l'aumento del salario minimo decretato da Barack Obama in America. Io voglio partire da un'intervista che trovate sul Corriere della Sera, è un'intervista al presidente della Regione Abruzzo, Giovanni Chiodi, perché ieri il Fatto Quotidiano ha rivelato questa vicenda. Nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria si sta indagando sulle spese della Regione Abruzzo, è saltato fuori che in una data di circa 3 anni fa Il governatore Chiodi ha dormito in un albergo dicendo ero solo, e invece è venuto fuori che era con una donna. E il Fatto Quotidiano dice gli inquirenti vogliono capire perché questa donna poi ha avuto un incarico pubblico. Ora, ci sono due aspetti. Il governatore Chiodi si presenta a cospetto del giornalista del Corriere della Sera Fabrizio Caccia, trovate l'intervista pagina 15, distrutto. Un uomo che dice Caccia durante l'intervista piange 2 volte. Il titolo è una debolezza quella ragazza in hotel, ma non l'ho aiutata al concorso. E dunque un'ammissione per quel che riguarda questo che definisce Chiodi un errore. È stato un errore, ho già parlato con mia moglie Daniela, con la più grande delle mie 3 figlie, Eleonora, che ha 22 anni, studia a Roma. Ci ho parlato e ci riparlerò, confido nella loro comprensione. Alla fine, malgrado tutto, spero di tenere unita almeno la mia famiglia. Poi, dopo l'incontro che avrò con i magistrati, parlerò chiaro anche ai cittadini. Mai visto Gianni Chiodi così, scrive il Corriere. Il governatore della Regione Abruzzo, 52 anni, sta soffrendo. La voce gli si incrina un paio di volte durante la nostra conversazione. Citerà Terenzio, citerà anche Gandhi, cercando conforto nella letteratura e preparandosi all'interrogatorio del 4 febbraio prossimo. La debolezza del governatore risale alla notte del 15 marzo 2011. Soggiorno all'Albergo del Sole a Roma, vicino al Pantheon, stanza 114, in compagnia di una donna che non era sua moglie e che 2 mesi dopo vedrà preferito il curriculum suo e a quello di altre 22 concorrenti, otterrà così un incarico pubblico quadriennale alle pari opportunità regionali. Ho fatto un errore, lo ripeto, dice Chiodi, una cosa finita lì, ma ora provo una grande amarezza perché qui mi si vuol far passare per uno che ha fatto la cresta alle spese, che ha chiesto rimborsi che non gli spettavano e soprattutto si è approfittato del suo ruolo pubblico. Ebbene, io lo posso dire senza tema di smentite, quello di cui si parla non era un concorso pubblico e quella persona che oggi prende 200 euro al mese per il suo incarico, ripeto 200 euro, io non l'ho mai favorita. Il suo curriculum piuttosto fu valutato da una commissione regionale di cui facevano parte i sindacati, dico la CGIL, capito? Cioè voi immaginate che io possa andare dalla CGIL a chiedere di favorire una persona? Ecco, è un fiume in piena Chiodi che lancia, al di là dell'aspetto giudiziario che chiarirà con i magistrati, questo tema dell'intervista col Corriere della Sera. Questa relazione personale di 3 anni fa, sottolineo, che diventa pura macelleria, ecco quello che mi amareggia. Famiglie massacrate, carriere esposte al pubblico ludibrio. E questo per un puro obiettivo politico. Io lo so perché il 25 maggio in Abruzzo si vota ed è chiaro che qualcuno mi vuol far fuori. Ma non si illudano i miei nemici, saranno gli elettori a dirmi quel giorno se dovrò andare via. Ho costruito tutta la mia vita politica sulla base di correttezza, rigore, attenzione di conti. Ho dovuto combattere con lobby pesantissime, antichissime, per risanare la sanità, abbattere il deficit di 1 miliardo di euro, tagliare i costi, abbassare le tasse regionali, limitare il budget, dimezzare le auto blu. E ora, come Gandhi, provo a ballare sotto la pioggia. Vabbè, forse il paragone con Gandhi è esagerato, però certo lancia anche un dibattito, Chiodi, anche nei confronti delle responsabilità della stampa, perché io dico, cari ascoltatori, dovesse poi succedere che non esistono responsabilità per quello che ha fatto Chiodi dal punto di vista della legge nei confronti della magistratura, e che si fa? Intanto sputtanato è sputtanato, e come dice lui, spero che i miei familiari e mia moglie mi perdonino. A proposito di familiari, oggi Repubblica torna sulla vicenda Mastrapasqua, ma con un dettaglio diverso, concentrandosi sulla moglie di Antonio Mastrapasqua, presidente dell'INPS, e messa così nel titolo fa sobbalzare: la signora delle 20 poltrone. Lady Mastrapasqua imita il marito. Cioè, scrivono Aldo Fontanarosa e Roberto Maria di Repubblica che la moglie di Mastrapasqua, dopo che ieri il Sole 24 Ore ha rivelato che sono 9 gli incarichi del presidente dell'INPS, anche la moglie, secondo Repubblica, è nota per avere moltissimi incarichi. L'ingordigia per le poltrone è una malattia di famiglia a casa Mastrapasqua, scrive Repubblica. Lui, il super presidente delle pensioni, si è fermato a 9 incarichi dopo aver strabordato fino a 25 negli anni passati. La consorte Maria Giovanna Basile, nativa di Avellino, classe 62, commercialista di professione, accumula 20 presenze nei collegi di sindaci delle più svariate aziende, dalla RAI ad alcune controllate dell'ACI fino alla CEA, municipalizzata romana crocevia di grandi giochi di potere. Insomma, una coppia incaricata, verrebbe da dire. E i potenziali conflitti di interessi, eccolo qui, è nel collegio dei sindaci della RAI, presente nei collegi di due importanti società controllate da Viale Mazzini, Rai Way e Rai Cinema, e poi le controllate dell'ACI, ACI Global, ACI Infomobility, Ventura, ACI Vallelunga, Targa SIS. Nell'arcipelago dell'ACI la Basile ci è arrivata non per legami coltivati col consorte, ma attraverso il suo socio dello studio di consulenza, Guido Del Bue, figlio di uno storico dirigente dell'ente parapubblico. Non basta, la CEA, insomma, e così via. Anche la moglie colleziona poltrone, i 20 incarichi dalla RAI all'ACI. Così su Repubblica lo trovate in prima pagina. E poi continua a pagina 10. Va bene, prendiamo un respiro diverso prima della pubblicità. Vi voglio raccontare quello che la stampa mette in prima pagina con la storia di un genio totale. Cari italiani, un genio, quando si dice il genio italico, il genio campano. Eccolo qua, il signor Giovanni Cafaro. Che cosa fa? Io che vivo facendo la coda per gli altri. Ah, geniale! Fabio Poletti, prima pagina della stampa, un quarantenne disoccupato si inventa un lavoro. 10 euro l'ora faccio la fila per gli altri. Stanco di aspettare un lavoro, stanco di mandare curricula, stanco di inutili promesse, si è messo in coda ad aspettare, facendosi pagare da chi è stanco di fare la fila. Chiedo 10 euro l'ora e metto ricevuta fiscale, il mercato è in crescita e forse aprirò un'agenzia. Giovanni Cafaro, 42 anni, salernitano, da 12 anni a Milano, una laurea in scienza della comunicazione, un lavoro che si è inventato da solo, quello di uomo paziente. Io sono quello che si mette in fila per chi non ha voglia e non ha tempo. Banche, assicurazioni, poste, ASL, non mi faccio mancare niente. Le file per pagare l'IMU sono il mio pane, giura lui. Aria distinta da professionista, occhialini di metallo, borsa di cuoio sotto braccio, sembra un manager. E viene tra l'altro immortalato alle 19:24 di ieri, l'ultima coda al supermercato, perché poi gli toccherà fare la coda anche per se stesso, no? per le pratiche al supermercato. È solo un uomo perennemente in coda, scrive la stampa. E siccome la pubblicità è l'anima del commercio, ha inondato Milano con 5.000 volantini gialli e blu per dare nell'occhio. La tua coda allo sportello? Da oggi la prendo io. e ha detto: mi han chiamato da Rimini, La Spezia, Napoli, se va bene mi allargo e metto su un'agenzia. L'uomo che si mette in fila per chi non ha tempo né voglia. Contattami dal lunedì alla domenica, anche ore serali. Bah, geniale! Geniale, un applauso al signor Giovanni Cafaro. E ora la pubblicità. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora ci siamo cari italiani, alle 7:35 minuti, pare davvero che siano la settimana decisiva, e questa è la 39esima settimana decisiva, ma all'interno della settimana decisiva, così l'ho letto sul Corriere della Sera in un titolo, l'ho anche twittato sul mio profilo Alino Milan, le ore decisive per che cosa? Ma chiaramente per l'accordo sulla legge elettorale, no? Oggi il Foglio in prima pagina, le mosse di Renzi per non trasformare in un pacco il patto con il Cavaliere. Matteo Renzi dice che non si farà ingabbiare, che sulla legge elettorale non si scherza, che le carte sono ormai in tavola, che nessuno può bluffare, che tutto è migliorabile, però stavolta l'accordo c'è, viaggia sull'asse Palazzo Vecchio-Palazzo Grazioli. Ma la cronaca della giornata di ieri ci offre elementi utili a comprendere come sui binari del pendolino esistano ancora alcuni ostacoli. Renzi, per tutto il pomeriggio, pur ostentando una certa tranquillità, ha camminato sul filo, a un passo dal grande accordo o dalla clamorosa rottura. Anche alla luce della telefonata avuta in serata con il Cavaliere, si può dire che il patto non sembra aver acquisito le caratteristiche di un pacco. Ci si accorda con Berlusconi, che aveva già concesso di alzare la soglia dal 33% al 35%. Il testo depositato in commissione prevede un premio pari al 18%. Renzi, sollecitato, ha chiesto a Berlusconi di far salire l'asticella a quota 38. Berlusconi non vuole, mantiene la linea. Possibile un accordo intorno al 37. Ecco, si sta discutendo, cari ascoltatori, soprattutto di questo, cioè dove mettere questa soglia per la vittoria al primo turno. E come ha fatto notare il deputato del PD Ermini ieri, a che temperatura viene la febbre? 37. Ecco, forse ci accordiamo a quella. E, insomma, a volte anche le cifre possono avere una simbologia e possono essere metaforicamente molto azzeccate. Sta di fatto che la lunga trattativa Renzi-Berlusconi, questo è il titolo anche del Corriere della Sera, pagina 4, l'ipotesi della soglia al 37%. Ieri Renzi ha parlato due volte al telefono con Berlusconi. Nel retroscena di Francesco Bei, la tela di Renzi per l'ultimo sì, siamo su Repubblica, pagina 3, questa è la miglior riforma possibile, così mai più le larghe intese. Due telefonate con Berlusconi, l'accordo ha bisogno solo dell'ultimo imprimatur, ognuno cede, guadagna qualcosa, grazie anche al pressing di Napolitano, Forza Italia molla sulla soglia del 35%, bisognerà arrivare almeno al 37% per ottenere un premio del 15%. Questo è il concetto. Ieri, secondo il giornale, c'è stata anche una lettera, scrive ad Alberto Signore a pagina 5, una lettera del Cavaliere a Renzi, l'accordo arriva al traguardo, 36 o 37%, questa è la soglia che verrà definita, e il giornale che titola Renzi ha le palle. Secondo il retroscena di Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, pagina 5, Angelino o Silvio e Silvio decidano qui o si chiude o si rompe. Renzi ha sempre questa linea, o si chiude o si rompe. E, insomma, siamo di fronte all'ultima possibilità. Staremo a vedere. Certo, ieri Napolitano, che viene citato da tutti i giornali, ha vissuto una giornata in cui è stato tirato dentro anche da questo deputato Giorgio Sorial del Movimento 5 Stelle, che lo ha definito boia in una conferenza stampa. Abbiamo fatto sentire, ovviamente i titoli sono tutte accuse sciocca, Napolitano, boia, sarà impeachment, la procura valuta anche il vilipendio alle istituzioni. Insomma, adesso questo, il vilipendio alle istituzioni, sta di fatto che questo Giorgio Sorial si è guadagnato un'attenzione mediatica di tutti i giornali. Il Messaggero racconta, pagina 5, Sorial, l'egizio bresciano, cioè figlio di egiziani, Scusarmi, mica son matto, racconta Claudio Marincola. Ieri, quasi a sera, Giorgio Ghirghis Sorial esce dall'aula, si riaffaccia in transatlantico. Pentito per il boia? Vuole forse scusarsi? Mica son matto, risponde lui. Riguardatevi bene la conferenza stampa, risentitela e capirete. Lui prova così a liquidare la faccenda, come se dare del boia al capo dello Stato in Parlamento fosse una cosuccia da niente. Il portavoce dei grillini alla Camera, Nicola Biondo, fa il gesto di portarselo via, evitargli il contatto con la stampa. La scena, scrive il Messaggero, fa pensare a quel giocatore che vorrebbe insultare l'arbitro, ma i compagni di squadra lo prendono sotto braccio e lo portano via. Vabbè, insomma, addirittura il Messaggero dice: Sorial ricorda tra l'altro un po' nelle fattezze Balotelli, sia per il colore della pelle, ma poi dice: la barba curata, l'aspetto vagamente satanico, satanico. Effettivamente ha questa barbetta un po' così, molto curata. Un pochino mefistofelica. Va bene. Allora, questo è successo anche ieri in Parlamento. Mentre io vi segnalo una spettacolare intervista che fa Vincenzo De Luca. Vincenzo De Luca, sapete, è decaduto da sindaco di Salerno per la sentenza del tribunale, perché è incompatibile col viceministro, con la carica di viceministro. Lui fa opposizione, si oppone, farò appello. Ma De Luca, sapete, è uno, anche quando l'abbiamo sentito anche ai nostri microfoni, che col suo tono da voce profonda e con i suoi giudizi sferzanti certamente si fa leggere, si fa ascoltare, indipendentemente dal fatto che abbia ragione o meno. Io combatto da solo i lupi delle lobby, così a pagina 4 del Fatto Quotidiano Fabrizio D'Esposito. Sentite come inizia Vincenzo De Luca. Senta, due senatori del PD, cioè il suo partito, le chiedono di smetterla. Risposta di De Luca: fallofori, fallofori, portatori del fallo nelle cerimonie orgiastiche dell'antica Grecia. Fallofori. Così De Luca risponde ai due senatori: io soffro molto a dover riconoscere che proprio voi del Fatto, miei nemici certificati, siete tra i pochi che hanno il coraggio di parlare in modo libero delle deleghe, delle questioni di potere che investono, le deleghe che non mi hanno mai dato da viceministro. E poi ancora: do petali di rosa alla Carfagna, che ha definito grottesca la vicenda dell'incompatibilità. Ho subito un'aggressione, pagato un prezzo. È difficile parlare di deleghe ministeriali alla gente. Poi c'è chi è interessato a non capire e a non spiegare, ma a fare moralismo vacuo. Accendiamo i riflettori su tutto. E poi le chiede D'Esposito: ma lei è plurinquisito, De Luca? Percepisco il brivido di goduria che le procura la parola plurinquisito, risponde al giornalista. Mi hanno accusato di tutto, di essere uno che usa metodi violenti. E dai, comunque, se avete trovato qualcuno che si è sentito colpito nel delicato, me lo indichi, gli manderò un po' di Leo Crema. Ecco, questo è il sindaco di Salerno De Luca. Caro Mauro Meazza, del Sole 24 Ore, eccoci qua. Buongiorno, temevomi. Fallofori. Ecco, lo sapevo che mi davi del fallofono. Vabbè, ma dai, fallofori è la risposta più incredibile che io abbia mai sentito. Anche devo la mia dire voce che ieri risente. La giornata era cominciata per noi con l'amico Michele. Ah, che grandi saluti. Ti ha scritto? No, ti ha scritto? Vediamo, no. Controlliamo. Oggi no. Ecco, no, che comunque aveva... salutiamo Michele, un grande abbraccio fraterno al nostro amico Michele. Al nostro amico Michele, che ci aveva così, diciamo, aveva un po' criticato il nostro... Pochino la nostra chiacchierata, però poi è andata peggio molti altri, insomma, quindi effettivamente la giornata, a partire persino dal Presidente della Repubblica, insomma, non volevamo dare la stura noi. Vabbè, ma i toni sono quelli, bisogna e benvenuto nell'Arena Italia. Eccoci. Oggi cominciamo col falloforo. Ecco. Vorrei dirti: hai studiato l'IMU? Non l'hai studiata? No. Non ti sei portato bene nel trimestre precedente? No. Oggi guarda che ti diamo un dizionario per capire, per studiare tutte le novità sulla casa, non solo l'IMU, anche quello che è cambiato per l'affitto, l'imposta di registro, il condominio, una cosa molto lineare, chiara, insomma, facciamo bella figura. Domani c'è Telefisco, come sai. Ah, e domani sei qui. E domani sì, potrei venire lì, così ti interrogo direttamente. Ah, va bene, ottimo. In diretta cerchiamo di arrivare preparati. Senti, non si usa più il bancomat, sì, per i professionisti, i negozianti, insomma, e tutti i servizi. So se hai visto, dovevamo avere l'obbligo del bancomat, poi dopo invece adesso è saltato, che lo rinviano. Non è saltato, però allora ci pensiamo un momento. All'italiana, rinviamo. Ci pensiamo un momento, perché già doveva partire a gennaio, al primo gennaio, poi è andato un po' lungo. E adesso ci pensiamo sicuramente fino a giugno prossimo, forse fino a giugno 2015, quindi ci stiamo pensando con molta serenità. E invece una cosa importante, guarda che la Cassazione ha detto che se non versi i contributi c'è il reato, e questo qui è un po' una cosa diversa da quel discorso se non versi l'IVA, però non potevi, non sì, hai sì. Ecco, c'era una certa comprensione. Invece ieri c'è stata una decisione, ne riferiamo oggi nella parte di norme tributi, che dice non scherziamo, il reato c'è, i contributi si devono versare, se no qui scatta il reato. Lo spiega bene, lo spiegano bene nelle pagine di norme e tributi. Quindi volevo avvisare, insomma. Se è pronto per la TASI, i due eurini li hai? Ah beh sì, i due eurini sono sempre qua, pronti, ecco, per magari, io adesso non è che voglio litigare con ministri, viceministri, eccetera, però magari te ne serviranno pure tre di eurini con la TASI, però... non ho detto che aumenta per tutti, ecco, ora che fosse chiaro. Rinviamo anche questa. Se no, la voce mi assiste, caro Mauro, preparati domani, così se la voce mi lascia, tu sei qua a condurre la rassegna stampa. Va bene? Ma no, troppo onore. Va bene, salutiamo il nostro Michele, grazie, e salutiamo anche il sindaco Vincenzo De Luca e i suoi fallofori. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Allora, cari panettieri tutti, un abbraccio anche a voi. Alle 7:47 minuti noi parleremo, come detto, tra poco, dopo il giornale radio delle 8, della vicenda Electrolux. Avremo Oscar Giannino, avremo Paolo Ferrero, avremo il sindaco di Porcia, uno dei stabilimenti, in Friuli Venezia Giulia, dove si rischia la chiusura, anche se avete sentito il ministro Zanonato dire non ci sarà la chiusura. Ieri ai microfoni Simone Spezia, proprio qui a Radio 24. Electrolux bloccata al via agli scioperi, questo è il titolo del Sole 24 Ore con la cronaca di Emanuele Scarci, oggi credo alle 3, oggi pomeriggio comunque al ministero ci sarà un tavolo per la trattativa, tutti convocati, sindacati, le autorità. Ovviamente sono tanti i racconti che trovate sui giornali. L'unità per esempio fa due pagine, pagine 8 e 9, andando negli stabilimenti proprio di Porcia, ma in uno degli stabilimenti la Serracchiani, che viene intervistata, Deborah Serracchiani, presidente della regione Friuli Venezia Giulia, a pagina 3 del quotidiano nazionale, da Alessia Gozzi, dice: il tempo è scaduto, il paese non può più attendere. Quel tavolo che viene convocato oggi avrebbe dovuto essere convocato giorni fa, prima della presentazione del piano di Electrolux, ma non voglio fare ulteriori polemiche, non ci interessa il tema del rimpasto di governo. Quello che mi interessa è che il governo dia risposte concrete, perché nessuno stabilimento deve chiudere. Certo, non si deve chiudere, ma l'altro tema che affronteremo è la questione dei cosiddetti salari polacchi, così è stata definita sui giornali. Per la verità non erano vere le notizie di un dimezzamento da 1.400 a 700 euro degli stipendi, questo avrebbe chiesto l'Electrolux, multinazionale svedese. In realtà è una decurtazione pari di 130 euro, che però rendono i salari già a livello molto basso in Europa, ancora più bassi. Ecco, lì si parla di salari alla polacca. Però c'è anche il tema delle multinazionali che dicono: ma che dobbiamo fare? Investire in Italia con la burocrazia, con l'oppressione fiscale? A noi conviene investire in Polonia rispetto all'Italia. Cosa possiamo fare? E noi andiamo là. Insomma, sono tanti i temi che coinvolgono anche l'Europa, e questo è un effetto del libero mercato? Tutte domande che porrò ai miei ospiti alle 8:15, anche per Repubblica. Repubblica va invece a Susegana, in provincia di Treviso, e dunque in Veneto, dove c'è un altro stabilimento dell'Electrolux. Noi operai spremuti come limoni non cederemo al ricatto di Electrolux. In fabbrica a Susegana dicono: con 850 euro al mese non campiamo più. Questo è l'intervista, l'inchiesta di Ian Ermeletti, che trovate su Repubblica a pagina 11. In tutto questo, in America che succede? Invece Obama ha alzato il salario minimo con una mossa, permettetemi una battuta, alla Renzi: o il congresso mi segue o decido da solo. Per la verità Renzi ha detto: o il Parlamento decide o decade tutto e arriva Goldrake. Ma insomma il concetto è simile, il tema è ben diverso. Obama passerà da 7,25 a $10.10 per i dipendenti di società appaltatrici del governo la paga minima, il salario minimo. Così ha deciso Obama, tanto che il manifesto mette appunto il confronto tra quello che succede in Italia, anche qui situazioni completamente diverse, ma insomma plasticamente il confronto ci può stare, mentre qui si discute se tagliare e per rimanere a lavorare, per rimanere con un'azienda multinazionale in Italia. Dall'altra parte dell'oceano Obama fa un jobs fact, cioè un fatto, qualcosa di concreto, e richiama il Jobs Act di Renzi. Il jobs fact per il manifesto è proprio questo di Obama: l'aumento del salario minimo per decreto e scala mobile. La mossa di Obama spiazza la destra americana. E in Italia invece, dopo le polemiche sulla proposta shock di dimezzare gli stipendi, il governo convoca Electrolux e sindacati, anche se questo dimezzamento è un po' un mistero, in realtà pare non sia un dimezzamento. Allora, in tutto questo, Buckingham Palace costa troppo, cari ascoltatori, lo sapete? La regina Elisabetta ha le mani bucate. Sapete quanto costa Buckingham Palace, quanto sono i trasferimenti dello Stato alla corte? 31 milioni di sterline l'anno. Fate un po' i calcoli, io non, a quest'ora non ce la faccio. Ma la regina Elisabetta Buckingham Palace spende 33,3 milioni l'anno in passivo. Mannaggia, Buckingham Palace costa troppo, ora più turisti per fare cassa, i deputati inglesi bacchettano la regina, come scrive Alessandra Rizzo, cattiva gestione delle finanze, sperperi, ma com'è possibile? Ah, la regina Elisabetta dalle mani bucate, vabbè. Voglio andare a segnalare due cose. Una è un bell'articolo Giampaolo Iacobini sul Giornale a pagina 16. Vi ricordate lo scandalo di Prato dopo i 7 cinesi, lo scandalo per i 7 cinesi morti, arsi vivi? Ebbene, sapete che il giornale scrive: ecco come la Cina ha abbandonato le vittime di Prato. Giampaolo Iacobini racconta che i parenti dei 7 morti nel rogo di qualche mese fa piangono i loro cari, dormono sui cartoni, abbandonati da tutti, vivono solo grazie alla carità di qualcuno che gli dà da mangiare, e il consolato cinese fa finta di nulla. Dimenticati non da Dio, ma dall'unica divinità in cui gli sia consentito credere per legge, la Repubblica Popolare Cinese. Dormono sui giacigli improvvisati, mangiano quel poco che viene dalla pietà di chi li vede vagare senza meta. I 12 cinesi giunti un mese fa in Italia dalle campagne dello Zhejiang sono fantasmi, e quando pure urlano frasi in un inglese improbabile nessuno li sente. Sono anche i parenti delle persone morte, alcuni abbandonati, dice il giornale, da tutti, soprattutto dalle autorità cinesi. Ma sempre sul giornale, con Vittorio Macioce, siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, a mio insindacabile giudizio, un'intera pagina che comincia in prima pagina sul Habemus Super Papam, perché è apparso un murale vicino al Vaticano che riprende Papa Francesco supereroe con vestito da Superman ma con gli abiti del Papa. Super Papam, Habemus Super Papam, il pugno destro chiuso puntato verso il cielo, la borsa nera da travette stretta nella sinistra con su scritto Valores, il mantello bianco che svolazza, la papalina e il crocifisso al vento, proprio come Clark Kent quando si mostra al mondo come Superman. Una pagina sul giornale su questo. E dai, su, la carta costa, no? E lo sapete. 24 mattino. Alle 8:19 minuti, eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, la vicenda Electrolux, la multinazionale svedese che ha 4 stabilimenti in Italia, come tutte le vicende complesse, ha 1000 sfaccettature. insomma, dal punto di vista dell'azienda, l'azienda non conviene più produrre in Italia, conviene produrre in Polonia. Vogliamo mettere il costo del lavoro, la pressione fiscale, la burocrazia che c'è in Italia, a chi conviene investire in un paese così bloccato, così poco dinamico? E poi ci sono però i lavoratori sono sottoposti a quello che appare loro giustamente un ricatto. Volete che non chiudiamo? E allora decurtiamo la busta paga del 40%. All'inizio si diceva no, forse è un giallo, in realtà almeno 130 euro in meno, però sì, ma che vuol dire questo? Cioè, vivere con 1.100-1.200 euro al mese, chi può accendere un mutuo, far studiare i figli e pagare tutto quello che c'è da pagare? E poi c'è l'Europa, c'è un discorso europeo, se vogliamo, è questa un'Europa che vogliamo? È uno degli effetti del libero mercato? Queste domande le voglio porre intanto a voi, cari ascoltatori, 800 24 00 24, poi le voglio porre agli ospiti, a cominciare da un graditissimo ritorno, sono molto felice, Oscar Giannino. Buongiorno Oscar e ben trovato. Buongiorno, lei Milan a chi l'ascolta. Grazie. E allora saluto anche Paolo Ferrero, segretario nazionale di Rifondazione Comunista. Eccoci qua, Paolo Ferrero, buongiorno e ben trovato. Buongiorno a lei, gli ascoltatori e le ascoltatrici. Allora, vogliamo iniziare però da Porcia, uno degli stabilimenti, sede di uno degli stabilimenti, provincia di Pordenone, Friuli Venezia Giulia, il sindaco Stefano Turchet. Buongiorno sindaco. Ma voi? Lei oggi va a Roma oppure no? No, io risparmio i soldi del viaggio a Roma perché non lo ritengo utile in questo momento. A Roma penso che sia opportuno vadano i presidenti delle regioni. Come mai? Non confida molto nel potere, diciamo, nel ministro Zanonato? Ma più che nel ministro, io non confido in questo governo che si è dimostrato in questi ultimi mesi molto debole nei confronti del resto dell'Europa, di Bruxelles in particolare. In questo momento si è dimostrato debole nei confronti di una multinazionale che è arrivata in Italia 30 anni fa, che ha fatto degli investimenti indubbiamente, ma che è stata anche molto aiutata con denaro pubblico per riconvertire le industrie Zanussi, e che in questo momento siede al tavolo e può puntare i piedi, in questo momento punta i piedi perché è consapevole di avere il coltello dalla parte del manico, sostanzialmente, puntando sì sul costo del lavoro e sul costo dell'energia, che in Italia sono più alti che altrove, ma certo, contando anche sul fatto che il nostro governo non riesce, da tanti anni ormai, i nostri governi non riescono a produrre delle politiche industriali e del lavoro in grado di competere con sì, il resto del mondo. Però sindaco, no, cioè, la consola o è in questo momento un qualcosa a cui credete, il fatto che il ministro Zanonato qui ieri ai microfoni di Radio 24 abbia detto a Simone Spezia non chiude lo stabilimento di Porcia, confida in questo oppure le sembra un falso ottimismo? No, io continuo a rimanere moderatamente ottimista, però conosco il sistema Electrolux, il loro modo di fare le investigazioni, perché sono qui da tanti anni, credo che abbiano delle idee chiare in testa. Cioè? In questo momento gli azionisti di riferimento dicono alla governance di Electrolux di spostarsi in quei paesi dove il costo del lavoro è più basso, dell'energia, della burocrazia è più basso. Sì, sì, ma anche dove ci sono le maggiori possibilità di sviluppo e quindi anche dove, diciamo, i prodotti possono essere venduti alla fine. Quindi si stanno spostando verso est. È chiaro che ai polacchi bisogna dire: oggi avete Electrolux, ma tra 8-10 anni Electrolux abbandonerà anche voi per spostarsi probabilmente in altri paesi. Io non lo so sulla base di che cosa il ministro Zanonato abbia detto che Porcia non chiude, non ha proprio detto così, mi sembra che abbia invece affermato che a Porcia ci sarà comunque una riduzione dei posti che lo stabilimento non chiuda, questo l'ha detto. Però sindaco, lei ha già posto alcune problematiche per le quali voglio interloquire con Oscar Giannino e Paolo Ferrero. Allora Oscar Giannino, ci ricordiamo tutti la vicenda, no, della famosa paura dell'idraulico polacco che viene qui e ti ruba il lavoro. Si rischia ora che non ci sia più la paura dell'operaio polacco che viene a rubare il lavoro perché trasformiamo gli operai italiani in operai polacchi? No, non trasformiamo affatto gli operai italiani in operai polacchi, nel senso che se vogliamo illuderci di erigere un grande muro a aboliamo la concorrenza, la competizione, i mercati, ci dimentichiamo del fatto che abbiamo avuto un calo del settore del bianco, degli elettrodomestici, superiore al 50% qua in poco più di 10 anni, cioè è praticamente il settore che supera quasi quello dell'auto, ce ne vuole per superare la crisi dell'auto. Possiamo anche immaginare appunto di poter avere soluzioni autarchiche, altrimenti bisogna vivere nel mondo. Noi siamo un paese manifatturiero, la nostra forza in realtà è la manifattura che esporta, cioè che sa stare sui mercati. La nostra debolezza è uno Stato che in tutto questo, in tutta la crisi che c'è e la perdita di competitività del paese e così via, che cosa ha deciso di fare? Di aumentare il cuneo fiscale dal 2005 a oggi, invece che diminuirlo. Promettono di diminuirlo, ma lo aumentano. E quindi il punto di fondo qui non è il mercato cattivo, l'impresa cattiva, il manager cattivo, le multinazionali, qui il problema è lo Stato, il desertificatore di impresa, lavoro, nel nostro paese si chiama Stato, e alla fine i nodi vengono al pettine, mi dispiace dirlo, perché spostare le produzioni, avvicinarle dove si vende di più, i mercati tirano di più, e dove ovviamente lo Stato depreda di meno, questa è la stessa cosa che fanno le imprese in tutto il mondo. Se noi vogliamo continuare a essere un paese di Stato depredatore da una parte e che impoverisce nel reddito disponibile i lavoratori, cioè i consumatori, e allontana le imprese, ci continuiamo così. Però caro Oscar, in questa immobilità della politica che non agisce appunto e non abbassa, anzi aumenta il cuneo fiscale, cosa succede? Che poi stritolati in questo duello ci sono da una parte appunto i manager, le imprese dipinte come brutte, sporche e cattive perché vogliono solo far profitto, e dall'altra parte gli operai che dicono e noi che dobbiamo fare con 1100 euro al mese, chi è che vive? Infatti questi sono, stiamo parlando di chi paga il conto, per così dire, e allora io esprimo solidarietà, però non mi piace il modo in cui si descrive il combattimento, perché il combattimento sembra che abbia una soluzione obbligata, quella di dire abbiamo dato tanti aiutini di Stato alle imprese, quindi vogliamo ricattarle, quindi adesso voi rimanete qui e continuate a pagare. Questo non, secondo me è proprio sbagliato, per così dire. Allora, quando c'è uno Stato, come hai appena ricordato tu, c'è una strada, secondo me. La strada qual è? Quella di tentare di difendere l'occupazione, il lavoro, cioè il fatto che le imprese restino qui. E in quel caso, se altre componenti del costo del lavoro non scendono, cioè quello dello Stato depredatore, ci sono tanti esempi, ma anche in Italia, con tanti contratti di solidarietà firmati non solo in questi anni di crisi, ma anche prima, da tutto il sindacato, CGIL compresa, nei quali si mette in discussione anche la componente retribuzione. Magari non si fa come hanno fatto, dando il cattivo esempio, in media, non si cade a piedi uniti nella trappola di dire che c'è una diminuzione del 50% quando è dell'8%. Sì. Naturalmente è vero, c'è anche la rinuncia ai premi di produzione. Sì, sono 130 euro, pare, 130 euro. Però ricordiamoci che Chrysler è in piedi perché nel 2008 il sindacato americano ha accolto l'idea, e lì era un'impresa italiana, cioè Fiat, a chiederla ai dipendenti americani, di dire: cari dipendenti americani, siccome voi costate il 34% più degli stabilimenti giapponesi qui negli Stati Uniti, dovete accettare l'idea che tutti i giovani che io prenderò li pagherò il 30% in meno. La Volkswagen nel 2005 ha accettato di tenere fermi i salari per i dipendenti, per i dipendenti che c'erano per anni, e che chi veniva assunto col 15% in meno. Quindi è una strada che nel mondo è stata battuta più e più volte, e anche in Italia. Meglio piuttosto perderla, la presenza dell'elettro, sì o non credo? Ecco, questa è la domanda che giro a Paolo Ferrero, che sicuramente ha una visione, un approccio sul mercato e sulle regole del mercato diverse da quelle di Oscar Giannino. Ferrero, meglio perdere a questo punto l'Electrolux oppure cambiare le regole del gioco? Insomma, e anche lei corre dietro alla visione che c'è da un po' ovunque, da tanti giornali anche oggi, del messa come è un'azienda che sottopone a un ricatto gli operai. Ferrero. Ma innanzitutto è evidente che il ricatto c'è, l'Electrolux non è una ditta in perdita, non è che abbiamo degli azionisti che stanno perdendo i soldi e regalandoli agli operai, abbiamo una ditta in attivo che vuole guadagnare di più, vuole dei profitti più alti, non vuole evitare le perdite, e per fare profitti più alti l'Electrolux vuole andare a lavorare in posti dove paga gli operai con salari da fame e dove non paga sostanzialmente tasse o paga tasse bassissime. Da questo punto di vista faccio notare che il primo problema è che l'Europa, così come è costruita, è una schifezza, e infatti noi questa l'abbiamo sempre combattuta, perché non è accettabile che in Polonia o in altri paesi dell'Unione Europea si paghino tasse così basse che non permettono di mantenere lo Stato sociale. Cioè bisognerebbe aumentare le tasse in Polonia invece che abbassarle in Italia. Certo, perché la sanità, perché mia madre ha avuto un infarto e io sono contento che in Italia si possa andare all'ospedale pubblico, mentre se lei ce l'ha in Polonia non è detto che ci può andare. Allora le tasse in questa Europa civile dovrebbero servire a far funzionare la sanità, l'istruzione e tutto il resto. Se si accetta che qualche paese invece tiene tasse così basse da non avere lo Stato sociale, è evidente che alla fine si distrugge lo Stato sociale. Ma lei dice le aziende e il profitto. Le aziende, uno degli elementi fondamentali dell'azienda è cercare più profitto per fare maggiori investimenti, ecco, e quindi dare più posti di lavoro. Perfetto. E quindi aprire nuovi stabilimenti. Tutto questo non è vero. Non è vero, perché nella misura in cui l'unico criterio dell'azienda è il profitto, può succedere che le aziende vadano a produrre dove guadagnano di più, ma pagano di meno la gente. Pagando di meno la gente non ha più i soldi in tasca per comprare le merci che produce. E l'Italia è un caso evidente, dove abbiamo abbassato i salari, ma la gente non arriva alla fine del mese e la crisi italiana è dovuta a un crollo del mercato interno, per cui l'Italia sta nella follia che è un paese che esporta più di quello che importa. Cioè l'Italia è un paese l'Italia è un paese competitivo sul mercato mondiale, per cui esporta più di quello che importa, ma la crisi italiana è dovuta a dei salari da fame, delle pensioni da fame che abbattono una ricchezza invece mal distribuita, perché i ricchi o la gente come Mastro Pasqua c'ha degli stipendi enormi. Vabbè. E quella roba lì non manda avanti, diciamo, al di là di Mastro Pasqua, magari affidiamoci a Banca Italia che dice il 10% degli italiani detiene circa il 50% della ricchezza. Però è un tema interessante, Oscar Giannino, oggi sui giornali è proprio così: mettiamo pure i 130 euro in meno agli operai di Electrolux, teniamo gli stabilimenti, ma poi si abbatteranno, dice anche Ferrero, ulteriormente i consumi, perché questi operai, come gran parte degli italiani, non possono più permettersi di alimentare il mercato dei consumi. Oscar. In Italia le aziende, per continuare a dare lavoro, pagano più che altrove, non meno, più che altrove. La componente che pagano di più non è quello che va in netto, purtroppo, al dipendente. Ma le tasse, il costo del lavoro. Ecco, allora il problema fiscale è, partiamo da questo presupposto, poi tutto il resto, naturalmente, se uno persegue la visione ideologica che l'impresa privata è affamatrice e che se diamo il 100% allo Stato siamo tutti felici, io rispetto un punto di vista diverso dal mio, naturalmente non sono d'accordo. I numeri dicono, in termini comparati, che qui le imprese tirano fuori di più per pagare la gente, e che il signore che intasca una differenza che continua a crescere è appunto il signore. Sì, però Stato. Oscar, Paolo Ferrero ti dice che questo permette a sua madre in Polonia, in Italia, di essere curata in ospedale. Polonia è l'unico paese europeo dal 2007 a oggi che non ha avuto un solo trimestre col segno meno, o meglio, ne ha avuto uno in totale. Quindi io francamente, prima di sparare sull'economia polacca, ci penserei molto bene, visto che noi siamo un paese che ha perso più del 9% di PIL, l'unico paese OCSE dal 2007 con reddito pro capite con il segno meno, 25 punti di produzione industriale e 27 punti di investimento. Quindi ci penserei molto bene prima di sparare contro chi invece ha avuto una performance di segno totalmente diverso. E le retribuzioni nette sono diverse? Certo, perché la Polonia è arrivata dopo di noi allo sviluppo, come le nostre erano bassissime quando l'Italia all'epoca, con la felicità di tutti, ha fatto lei dumping sociale con le basse retribuzioni rispetto ai paesi industriali precedenti, cioè negli anni 50 e 60. Quindi questo è un altro ciclo della storia. Il problema è che quando si diventa poi un paese maturo, bisogna sapere che bisogna lavorare su tutte le componenti del costo del lavoro, e qui lo Stato ma su questo l'alternativa però tra perdere reddito, come dici tu, oppure credere di imporre, di continuare alle imprese di pagare questi costi impropri, senza rendersi conto che così aumentiamo solo i disoccupati e desertifichiamo l'impresa, come puntualmente sta avvenendo in questi anni, è una falsa alternativa. Meglio difendere il lavoro che c'è oggi per rilanciare domani, come hanno fatto in America e in Germania, piuttosto che dire spacchiamo tutto perché il lavoro si perde subito e non ricompare dopo. Allora andiamo no Ferrero, però dopo la pubblicità mi fermo un attimo, le do subito la parola insieme anche al sindaco di Porcia Stefano Turchetta, che assiste a questa discussione. Vorrei portarla alla discussione, ovviamente le discussioni anche su tematiche importanti, poi alla situazione concreta di come la comunità vive questa situazione. Tra pochi minuti, se volete 800 24 00 24 per intervenire, siamo con Paolo Ferrero, con Oscar Giannino, col sindaco di Porcia Turchetta. 24 mattino. Eccoci qui alle 8:40 minuti, il caso Electrolux. Prima di tornare agli ospiti vorrei due ascoltatori, se sono brevi. Roberto da Trani, Roberto buongiorno. Buongiorno, grazie per la possibilità di parlare. Io intanto sono felicissimo che il dottor Giannino sia in trasmissione. Io mi volevo agganciare al discorso della Polonia. Io sono l'amministratore di un'azienda che fa impianti. Sono stato in Polonia a novembre scorso e mancavo della Polonia dall'88. Nell'88 avevano le tessere per il pane e per la carne. Oggi in Polonia girano con più BMW e Audi che in Italia. C'è un trend di crescita mostruoso. Il problema è che però noi abbiamo ancora politici, tipo il suo ospite Ferrero, che dice delle corbellerie assurde. Continua a parlare di Stato sociale. Il problema è che il nostro Stato sperpera il denaro. Questa è la realtà. Lui, quando era in politica attiva, ce ne sai che nel governo era sui banchi del Parlamento, non ha mai controllato la sperequazione lira-euro. Oggi il potere d'acquisto interno dell'euro è assurdo, si spende 5 volte in più di quanto si spendeva prima, quindi il potere d'acquisto di 1000 euro non è più quello di una volta. Vabbè, adesso Ferrero le risponde, comunque lei ci ha dato uno spaccato di Polonia e di Ferrero. Concluda Roberto. Quindi alla fine l'Electrolux oggi che propone una riduzione, casomai poi qualche giornalista assurdo dice che sono il 40%, il 50%. Vabbè, 130 euro al mese. È un'opportunità in questo momento. Ho capito, è un'opportunità in questo momento. Dipende sempre dai punti di vista. L'operaio che si vede decurtato 130 euro non la vedrà come un'opportunità. Questa sarà d'accordo con me, sarete d'accordo tutti. Ma Paolo Ferrero, quello che dice Oscar Giannini è che quell'operaio probabilmente, invece di arrabbiarsi contro la multinazionale brutta, sporca e cattiva che cerca maggiori profitti, dovrebbe dire alla politica, e così lei risponde anche Roberto da Trani, che fate voi? Perché il costo del lavoro in Italia è più alto che in Polonia e per questo vi ciucciate gran parte del mio stipendio lì? Ferrero. No, ma ripeto che il costo del lavoro, se è più alto in Italia che in Polonia, è dovuto in fatto principalmente che in Italia abbiamo i servizi, abbiamo la scuola pubblica, abbiamo la sanità, abbiamo tutte quelle cosine che rendono la vita un po' più decente, che in Polonia non ci sono. La cosa che io faccio notare a Giannino è molto semplice, che la sua ricetta è esattamente la ricetta che è all'origine della crisi. Si è cominciati con Craxi nell'83-84 a tagliare la scala mobile, Amato l'ha abolita e poi si è allungato l'età per andare in pensione e poi si è fatta tutta la campagna sul costo del lavoro, si è precarizzato. Alla fine l'unica cosa che è successa è la distruzione del mercato interno. E se l'Italia sta così male è esattamente perché grazie a queste politiche i profitti delle imprese sono aumentati, i ricchi sono più ricchi e i lavoratori e i pensionati più poveri. Questo è il problema e questa è la ricetta sbagliata. Assieme a questo c'è un altro problema, che è che questa Europa, così come funziona, è un disastro, perché permette di farla concorrenza. Guarda, tanto Ferrero, mentre parliamo, mi ha scritto un ascoltatore via mail dicendo: lavoro in Polonia da anni, da molti anni lavoro in Polonia, posso assicurare che il sistema sanitario è completamente gratuito e offre livelli di assistenza anche spesso migliori di quelli italiani. Sì, se vuole, quando c'è un problema questo ascoltatore mi scrive, gli do la mia mail, andiamo assieme a fare un giro. Andiamo a fare un giro, va bene. Io, sindaco Turchetta, lei sta assistendo a questa discussione. Lei all'inizio ha detto: avviso i polacchi, avviso che l'Electrolux arriverà lì, ma tra 8 anni ve la perdete. Ha fatto un po' arrabbiare all'inizio Giannino, ha sentito a dire: è una sorta di ricatto, siccome vi abbiamo dato dei soldi pubblici, adesso voi dovete star qui anche se non c'è competitività, anche se c'è la burocrazia, anche se i costi sono troppo alti. Ma no, io non sostengo che loro devono stare qui a tutti i costi. Io sostengo che in questo momento Electrolux deve sedersi al tavolo ed insieme a un governo ragionevole, sì, perché a questo punto bisogna soltanto votarsi un governo ragionevole, trovi delle soluzioni per mantenere i posti di lavoro. E questo si sta cercando. Però io vorrei aggiungere, visto che ho sentito sia Giannino che Ferrero, io ieri ho passato il pomeriggio con gli operai in Electrolux e per fortuna ho incominciato a sentire ragionamenti diversi rispetto al passato. Gli operai non la pensano più come Ferrero, ma ascoltano un pochettino di più i ragionamenti di Giannino. E questa è una novità. Perché? Perché parlando proprio di stipendio abbiamo capito che ciò che l'imprenditore paga in Italia, al di là del netto che lascia in busta paga all'operaio, va allo Stato che non lo utilizza in maniera corretta. Oggi lo Stato deve rendersi conto che affronta una cura dimagrante di quelle pesanti. Ecco perché dico non si deve toccare lo stipendio base, ma incominciamo a toccare stipendi e pensioni di livello diverso. Fa una bella cura dimagrante e vedrà che la nostra Italia ritorna competitiva. Oggi noi ci permettiamo di pagare tante persone che non sono produttive, quindi che non aiutano il reddito. Con denaro pubblico ci permettiamo di ripianare i conti dei comuni che non sono virtuosi e non chiediamo a quei sindaci: sindaco, quel primo di gennaio ti metti in linea. Sì. Lei, io vorrei anche spiegare ai vostri ascoltatori dove vanno tanti soldi che dai comuni, anche dal mio comune di Porcia, quest'anno ho versato 316.000 euro di quota parte di Tares. Questi soldi vanno spesi male, vanno usati per esempio per ripianare i bilanci di quei comuni che non riescono a chiudere. Lei però, pareggio, sindaco, e questo costituisce un grosso problema, perché non sarà possibile in futuro continuare. Sì. Non sarà possibile continuare perché non avremo risorse. Su oggi Zanonato può essere ottimista, perché io so che Zanonato pensa di poter affrontare i prossimi mesi ancora una volta con gli ammortizzatori sociali, che sono la cosa più sciocca che si possa fare, perché l'ammortizzatore sociale fa aumentare il debito pubblico e a medio e lungo termine non ti dà prospettive. Questo gli operai lo hanno capito. Hanno anche capito che in Polonia lo Stato sociale c'è, non è a livello di quello italiano, ma posso anch'io garantire che se uno si ammala viene curato. Allora, certo, si fermi, in Polonia si fermi. La spesa no, pubblica non è quella nostra. Dell'Italia, però si fermi, perché su questo tema, dopo il traffico, insomma, sentivo forse Oscar Giannino gongolare sottofondo e magari Paolo Ferrero per questo sondaggio fatto così sul campo dal sindaco di Porcia, a dire gli operai pensano più come Giannino che come Ferrero. Da qui ripartiamo tra un attimo, un minuto da Oscar Giannino. 24 mattino. Allora, caro Oscar, il sindaco di Pordenone sull'Unità, tu hai sentito il sindaco di Porcia, Claudio Pedrotti, tra l'altro ex manager della Zanussi, ora Electrolux, dice: la verità è che noi siamo gente troppo buona, non facciamo i cortei, ma quando è troppo anche i buoni si incazzano. Però hai sentito che il sindaco di Porcia, in questo polso toccato ieri in azienda, dice: gli operai la pensano sempre più come te, non ce ne voglia Ferrero, per carità. No, ma io non gongolo, punto numero uno, perché stiamo parlando di un paese in cui in discussione, purtroppo, per chi fa il nostro mestiere, ogni giorno c'è la perdita di lavoro, quindi non si può gongolare di questo, assolutamente no. L'unica cosa che dico è che mi auguro che la gente ragioni sul cambiare le cose dal basso, se in alto il discorso non cambia. Perché nella spesa pubblica si debba cominciare da quello che dice il sindaco, visto che i sindaci sanno bene, sono a loro volta dei tagliati dallo Stato centrale, come vediamo da 9 mesi su questa ridicola vicenda IMU, su quello sono d'accordo, ma mi auguro che dal basso i lavoratori, le rappresentanze aziendali, le RSU e tutte le sigle sindacali, tutte comprese la FIOM, la CGIL, tutte, ragionino sul fatto che bisogna essere concreti, e essere concreti significa difendere il lavoro e le imprese laddove ci sono, per la componente di cui ciascuno è responsabile. Purtroppo di cui i sindacati e i lavoratori non possono che rispondere della componente del lavoro, di come è organizzato il lavoro, i turni, dei premi, della flessibilità, di queste cose qua. Ma io sono dell'idea che con un atteggiamento responsabile, trattando instancabilmente, non si tratta di dire sì alle imprese, si tratta di star seduti e non alzarsi fino a che non si esaminano tutte queste poste. Io preferirei vedere un paese che in questo si tira sulle maniche dal basso e tenta di complicare la vita a chi magari ha già deciso di andarsene, perché il sindaco ha ragione quando dice che Electrolux ci manda ormai da tempi molto lunghi segnali di andarsene dall'Italia, e purtroppo la politica in questo ha fatto finta di non capire. Cioè, quando 2 settimane fa, e ho finito, un'industria di Pordenone ha tirato fuori il documento in cui ai sindacati ha detto iniziamo a ragionare dal basso anche sulla componente costo del lavoro, perché altrimenti qua le imprese se ne vanno, è ovvio che era mirato al fatto, perché si sapeva che saremmo arrivati al caso Electrolux. Anch'io ci ho fatto la trasmissione. Il punto per i sindacati è quello di da una parte essere responsabili dal basso con i lavoratori, ragionando e inchiodarsi ai tavoli, e dall'altro però premere su uno Stato verso il quale il sindacato continua a essere troppo buono. Ferrero, questa Europa, perché dice questa non è l'Europa che vogliamo? Se poi vuole rispondere anche al sindaco che ha dato questa visione, insomma, incontrando ieri gli operai dell'Electrolux. Ma vede, ieri io non sono potuto andare a Porcia perché stavo lavorando io per vivere normalmente, ma ci sono stato a novembre sia su Segana che a Porcia e ho incontrato i lavoratori e ho sentito anche altre cose, per cui diciamo così ci sono opinioni diverse tra i lavoratori. La cosa che voglio sottolineare al sindaco è che l'Italia, sono 20 anni che la spesa dello Stato è più bassa delle tasse che paghiamo. Il buco è dato dagli interessi da usura che vengono pagati alle banche e alla speculazione. Noi regaliamo 90 miliardi all'anno agli speculatori ed è questo il problema dello Stato italiano. Continuare a dire che il problema è il comune che ha 2 dipendenti in più è raccontare una stupidaggine e farsi del male. Il problema non è la spesa pubblica, abbiamo meno dipendenti della Francia, della Germania, di tutto. Il problema è la speculazione finanziaria che noi ingrassiamo anno per anno, questo è il problema. Allora si dicano le cose come stanno, che il problema è che i lavoratori pagano troppe tasse perché regaliamo i soldi alle banche e agli speculatori e che lì bisogna andare a colpire. Questo sono d'accordo totalmente, solo che questo non viene detto perché evidentemente le banche e gli speculatori sono molto amici, diciamo così, dei Giannino e di tutti gli altri che propongono che l'unico punto è andare a colpire il costo. Finisco su una battuta, invece su concretamente sulla Zanussi, il punto è che il governo deve intervenire. E il governo deve intervenire facendo un piano che non ha mai fatto sulla questione degli elettrodomestici e deve intervenire anche forzando le regole europee, perché non si può permettere che queste aziende arrivino, mangino quello che devono mangiare e dopo che sputano l'osso e se ne vanno. Ma lei la vede sempre così, cioè come l'impresa così che arriva, scusi, fa profitti le faccio un esempio, con la volto Fiat, cattivo. La Fiat, ma certo, perché le imprese semplicemente lavora a fare profitto, ma non è detto che il massimo di profitto per l'azionista sia il meglio per la società. Prenda la Fiat. Ma ho capito, ma le imprese, le imprese fanno profitto come è legittimo, come tutti, la Costituzione italiana dice che l'impresa è libera, ma deve tenere conto del bene sociale. Questo bene sociale non c'è più, c'è solo più il massimo del profitto. Non ci sono i posti di lavoro, gli investimenti. Ma non ci sono i posti di lavoro perché i salari sono troppo bassi e la gente non riesce a comprare. Ma perché più sono le merci. Bassi? Questo, questa è la questione. Hanno abbassati, hanno tolto la scala mobile. Ma forse perché si diceva che il costo del lavoro è troppo alto, visto che, solo che negli altri paesi che gli stipendi sono più alti. Negli anni 70, quando tutti dicevano che si stava male, in Italia c'era l'occupazione altissima e la gente stava civilmente, e dopo 30 anni di cura in cui si è tagliato il costo del lavoro, tolta la scala mobile, tolti lacci e lacciuoli, permesso alle imprese di licenziare, maggiore libertà, poi Giannino ne vuole di più, ma diciamo è stato fatto moltissimo su quella strada, adesso stiamo molto peggio, ci sarà una ragione, adesso c'è una crisi economica pazzesca. Fatemi sentire Daniele da Padova però, perché non devo chiudere. Daniele, sia sintetico per cortesia, anche se la ringrazio lì da tanto tempo. Daniele. Velocissimamente, mi sente? Benissimo, dica. Allora, due cose. Intanto sono contento che Zanino sia tornato in Radio 24. Ma Radio 24 è tutti i giorni alle 16.30, Oscar. La versione di Oscar dalle 16.30 alle 17. No, tutti i giorni. So, vabbè. Al mattino sono contentissimo anch'io che sia qua. Dica, Daniele. Ma un problema, il governo invece che fare opere assistenzialiste o programmi e piani di recupero, secondo me dovrebbe pensare che le privatizzazioni hanno portato a Italia, cioè la politica ha ceduto ai suoi amici le aziende che facevano profitto, energia, telefonia, quant'altro. Tutte queste cose non si producono per non guadagnarci se si è dei privati, e il costo dell'energia invece che diminuire è aumentato. È aumentato. Si fermi lì, Daniele, no, si fermi lì, perché altrimenti sforo. Vi ringrazio, Paolo Ferrero, il sindaco di Porcia, Stefano Turchetti, Paolo Ferrero, segretario di Fondazione Comunista, e Oscar Giannino, oggi alle 16.30, come tutti i giorni. Oscar, ti ringrazio, ti mando un grande abbraccio, e quando vuoi su queste tematiche sai che il microfono per te è sempre aperto. Ci sentiamo domani alle 6.30, grazie a tutti. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.